Lo sciopero alla rovescia è un'antica quanto fantastica esperienza prodotta dal movimento operaio italiano negli anni 50, in particolare dai braccianti disoccupati, che andarono a occupare le terre lasciate incolte dagli agrari per rimetterle, diciamo, in attività, piantando la semina, sistemando gli argini dei fiumi che erano stati, dei canali che erano stati compromessi dai bombardamenti della guerra. Quindi noi prendiamo spunto da questa straordinaria esperienza storica e facciamo ciò che tanti cittadini lamentano non venga fatto, cioè andiamo a pulire il bosco dei prati di Caparara, che presenta alcune zone particolarmente degradate, dove ci sono dei cumuli di pattume. Quindi noi entreremo dentro al bosco muniti di sacchi per la raccolta differenziata e ci proponiamo di depositare lì, a quello che è l'ingresso principale dei prati, una discreta quantità di pattume a disposizione di ERA affinché lo venga ritirare. La vicenda dei prati di Caprara nelle ultime settimane ha avuto una svolta con l'annuncio da parte del sindaco che l'outlet, insomma, non si farà perché l'amministrazione investirà direttamente sul restyling dell'ARA. Voi vi accontentate di questa notizia? Assolutamente no. Infatti abbiamo svolto proprio una decina di giorni fa, dopo la pseudo svolta del comune, insomma, una affollata assemblea nella quale abbiamo preso atto di questa novità, che giudichiamo anche positivamente, fatto cioè che non si intende più realizzare un outlet della moda ai prati di Caprara Ovest. Tuttavia noi proseguiamo imperterriti lungo la linea che abbiamo tracciato fin dall'inizio. Anzi, tra l'altro, ne approfitto per comunicarvi che il 27, cioè giovedì della settimana prossima, faremo un presidio davanti al CRB proprio per contrastare e ribadire il nostro sdegno di fronte al progetto di abbattere una parte di quegli impianti sportivi per farci l'ennesimo supermercato di cui Bologna sicuramente non ha bisogno. È l'ennesima operazione speculativa vergognosa che noi ci proponiamo di arrestare. E il 29 andiamo a pulire il bosco. Perché? Perché noi riteniamo che il bosco costituisca una straordinaria risorsa per la città e quindi, in analogia con quanto sta avvenendo nel resto d'Europa, dove gran parte delle capitali sono impegnate in enormi operazioni di riforestazione, il nostro bosco urbano venga salvaguardato in quanto costituisce un polmone fondamentale per preservare una decente qualità dell'aria della città, che già risulta particolarmente compromessa, come hanno dimostrato i dati di aria tesa prodotti non più tardi di pochi mesi fa. Quindi noi andiamo avanti determinati e aspettiamo l'avvio dell'istruttoria pubblica da parte del Comune di Bologna, che è stata già programmata nel suo inizio per il 7 di novembre, perché ribadiamo la nostra richiesta principale, cioè cambiare le previsioni urbanistiche a suo tempo adottate dal Comune. Qui non esprimo giudizi di valore nei confronti di quelle previsioni urbanistiche, mi limito a constatare e a sottolineare che quelle previsioni urbanistiche sono del tutto destituite di fondamento alla luce delle novità e delle trasformazioni profonde che hanno riguardato questa città. La città dispone di migliaia di appartamenti sfitti, quindi prima di costruire nuovo bisogna recuperare quello che c'è e metterlo a disposizione di un mercato sempre più sofferente, come dimostrano i dati degli studenti universitari fuori sede che non trovano più alloggio, come dimostra la difficoltà di tantissime famiglie a basso reddito di trovare una casa, diciamo, a prezzi accessibili per l'affitto. Pensiamo che lo sviluppo di questa città non sia riposto in un ulteriore incremento delle attività commerciali, bensì nelle attività di formazione, di ricerca e di innovazione. Quindi saperi, abbiamo un'università, abbiamo importanti centri di ricerca, abbiamo una ottima manifattura che, nonostante i colpi durissimi che ha subito nella crisi, denota tuttora degli elementi di estrema qualità. Quindi la prospettiva di Bologna è lì, non è nell'aprire nuovi supermercati e nel costruire nuove abitazioni di cui non c'è bisogno.